Personal Best di Silvio Lorenzi e Ivana Di Martino. Ben ritrovati su Radio 24, ben ritrovati Ivana Di Martino. Ciao, buona domenica a tutti. Allora, oggi siamo felicissimi di avere qui con noi Nadia Batocletti, benvenuta. Grazie mille, ciao a tutti. Come stai? Tutto bene, sì. Ricordiamo, due volte campionessa europea Under 20 di corsa campestre e da pochi giorni Under 23, cosa cambia? Beh, cambia la consapevolezza e tutto sta diventando reale e sempre più concreto e mi sto avvicinando sempre di più all'atletica che conta. Domenica scorsa infatti un bellissimo quinto posto alla 5 Mulini, classicissima del cross internazionale, una gara all'attacco da subito, com'è andata? Sì, sono molto felice, è stata una gara molto importante dal punto di vista tattico, anche perché dopo poco più di metà gara ho deciso di fare un attacco e quindi mi sono testata. Sono molto felice, sì. Però da subito eri davanti. Sì, allora, questo qua, sì. Oggi va così. Sì. Ci sono certe giornate in cui mi carico molto e quindi penso di poter fare il massimo. Ti eri preparata apposta per questa gara? Sì. In questo mese ho preparato per l'appunto il campaccio e la 5 Mulini. E cosa ti piace della corsa campestre? Beh, credo il fatto che non sia tutto uguale. I percorsi cambiano. Ogni anno, esatto, sì. E comunque mi piace un sacco correre sul terreno, sull'erba, e infatti io solitamente mi alleno o sui prati oppure all'interno dei campi da golf. Ah, sì. Wow. E qual è il terreno che ti fa andare più forte? Non so, fango oppure preferisci più secco? Oddio, preferirei un sacco di fango, sì, sono una persona un po' strana. E tutti, insomma, chi ama la campestre vuole il fango alla fine. Alla fine sì, forse si cerca quello. Però negli ultimi anni non abbiamo visto molto. No, purtroppo no. L'anno scorso alla 5 Mulini, se ricordo male, nevicava. Sì, esatto, faceva freddissimo ed era tutto congelato. Io ricordo bellissimo la 5 Mulini perché l'anno scorso l'ho corsa da master. E mi sono schiantato all'ingresso del mulino, per cui vabbè. Te lo sei portato poi in mano. Sì, un ricordo bellissimo, infatti. Infatti non l'hai fatta poi quest'anno. Beh, quali saranno i prossimi impegni invece? E in merito c'è proprio una X. Non so cosa fare, non so cosa farò. E sicuramente per questo mese di febbraio credo di finire la preparazione invernale e poi prepararmi per tutte le discipline in pista. Ah, ecco. Cosa preferisci, il 1500 o 3000? Altra domanda X. Ecco, bene. E io credo di... L'anno scorso mi piacevano un sacco i 3000, mi sentivo più a mio agio rispetto ai 5000. I 1500 non li ho provati in quanto l'anno scorso ho fatto la maturità e quindi non ho trovato il tempo. E quest'anno credo di avvicinarmi più ai 5000, quindi comunque le proverò tutte. Brava. Maturità? E al liceo scientifico. Ah, bene. E sì. Adesso cosa fai? Adesso sono al primo anno di ingegneria e di architettura a Trento. Brava, complimenti. Grazie. E di l'architettura? Sì. E litigherai con te stessa praticamente. Esattamente. No? Perché ingegneri e architetti sono... Sì, divisa a metà. E nel frattempo appunto tu studi ingegneria e dile, come riesci a incastrare tutto? Beh, il primo mese è stato abbastanza complicato, anche perché io mi sveglio la mattina presto, alle 6:30 così, alle 7:30 esco a correre, ritorno, vado all'università, ritorno a casa, mangio, studio, vivo se possibile e ritorno a correre. Respiro? Esatto. Quindi due allenamenti al giorno riesci a farli? E a volte sì, non tutti i giorni ovviamente. Com'è una tua giornata tipo? Così descritta. Così. Quanti giorni ti alleni a settimana? E tutti, mi alleno tutti i giorni, sì. Senza riposo? Senza un giorno di riposo? Ma più che altro io e mio papà, che è il mio allenatore, e ci basiamo sulle sensazioni di quel giorno. Se quel giorno sono molto affaticato, sto male, ovviamente sì, preferisce riposare. Il tuo allenatore, infatti, è tuo padre, ex azzurro, insomma, lui ne sa qualcosa di atletica. Sì, sta un po'. E come concilia soprattutto lui i due ruoli, di padre e di allenatore, insomma? Avete trovato un equilibrio nel tempo o già da subito era così? No, credo che fin da subito, anche perché io quando ero piccolina comunque andavo sempre alle sue gare a vedere le maratone, le mezze maratone. E poi io fin da piccola faccio sport. All'età di 7 anni ho iniziato a correre e quindi credo che ci sia stato un binomio di questo ruolo fin da quando ero piccola. Tu ce l'hai proprio, l'atletica nel DNA, non potevi dire, avresti potuto dire, non so, faccio pallavolo a un certo punto. L'ho provato. L'ho provato, sì. Sì, sì, ho provato. E il secondo sport, infatti, che mi piace di più non è la pallavolo. Ma è il tennis. Infatti, da piccolina ho fatto 4 anni/5 anni di tennis, sì. Che insomma con l'atletica non è che c'entri molto. No, infatti, tutt'altro. E in tutto questo non ti capita mai di dire sono stanca oggi, proprio non ho voglia o non riesco ad andare a correre? Nell'ultimo periodo no. Non so per quale motivo, forse perché ormai è diventata quotidianità. Sa di fatto che comunque l'atletica mi piace, altrimenti non la praticherei. E non mi pesa neanche il fatto di svegliarmi presto e andare a correre, questo no, quindi credo di no. Non hai rinunciato a nulla per l'atletica? Insomma, no, non senti di aver rinunciato a qualcosa? No, non sento di aver rinunciato a nulla. Sa di fatto che è uno sport ricco sì di sacrifici, ma allo stesso tempo anche di gioie e lacrime. Quindi magari... Ti ha dato delle soddisfazioni, quindi anche per quello che immagino ti piace farlo. Sì, no, questo sì, credo a tutti. E quando è che hai iniziato a prendere consapevolezza dei tuoi mezzi, delle tue capacità? Perché, insomma, sei una che va forte, possiamo dirlo. Anche su questa domanda c'è una X. Ecco. E forse da dopo Lisbona, quindi da dopo il campionato europeo di questo, dello scorso dicembre. E ho cominciato a capire che forse l'atletica sarà il mio futuro e sempre più concreto per l'appunto. Non credo di aver ancora compreso quali siano i miei limiti, ma credo che sono sulla strada giusta per capirli. Li stai andando a cercare, diciamo. Esatto, piano piano. Ti piacerebbe poi fare un domani, non so, una mezza maratona, una maratona? Sì, no, questo sì. Ah, quest'anno, attenzione. Vedi? Quest'anno addirittura? No. Ah, ok. Quest'anno ho iniziato ad aumentare i chilometri e non mi pesa farli, di conseguenza si sta... concretizzando anche questa idea, questa opportunità. Sì. Una volta, insomma, la maratona era specialità di chi aveva già qualche anno in più, insomma, non ci si pensava. Sì, a 20 anni. No, infatti, no, non ci sto pensando. È una piccola idea. Okay, è lì, insomma, sì, teniamola lì, cassettino. E quest'anno è l'anno olimpico, tra 4 anni dove ti vedi tu? Oddio, spero alle Olimpiadi di Parigi. Sì. Spero in quelle, sì. Nel frattempo ci saranno gli europei a Parigi, appunto, quest'anno, esatto. No? Giusto per andare giusto a scaldare per... il motore. Esatto. Se non sbaglio c'è un minimo che è 15,50 sui 5.000. Sì. Quindi quest'anno provi ad andare a prendere. Sì, provo di sì. L'anno scorso ho avuto dei problemi e la maturità di mezzo e quindi non ho potuto neanche allenarmi come un atleta professionista. E quest'anno credo di già valere il minimo per gli europei. Perché il tuo personale in questo momento qual è? 16 minuti e... Ah, ci devi pensare addirittura. 16.09. Ah, beh, dai, allora è già fatta. Vedi che qui il personal best non è che siamo proprio fissati con i numeri. No, esatto. Non è che gli ospiti si ricordano. Nadia, ma tu hai un atleta preferito? Beh, allora, in primis sì, mio papà. Ah. Sì, ovvio. E ovviamente anche Hicham El Gharouj, che è una leggenda che credo tutti gli atleti conoscano, sì. E di lui mi piace il fatto che, nonostante gli imprevisti, sia riuscito comunque a fare tantissime cose. Lui 1005 però lui, no? Sì, esatto. 2 medaglie olimpiche, 4 mondiali, vado a memoria, però non so se... 4? No, sì, no. può essere 4. Facciamo 4, finta 5. Che so delle cose, cioè. Si parla del Gharouj perché ultimamente, insomma, noi parliamo di maratona e spesso parliamo di Eliud Kipchoge che batte il Gharouj nel 2003, se non ricordo male, proprio ai mondiali di Parigi, e quest'anno invece sfiderà Bekele sulla maratona sì, di Londra. Sì, ho sentito, esatto. La seguirai? Sì, sicuramente, è uno scontro epico. Ti appassionano queste cose? Sì, ovvio, questo sì, anche perché so quanto sacrificio ci sia dietro. E invece, tra gli atleti italiani, hai qualcuno che prendi come riferimento? A parte tuo papà. Come atleti italiani non credo. Ah, non credo. Te stessa, diciamo. Neanche quello. Neanche questo, sennò sarebbe un po' troppo. Segui qualche dieta particolare oppure hai una nutrizionista o fai, insomma, fa la tua mamma? No, allora non ho nessuna nutrizionista, no, nessuno mi segue dal punto di vista del cibo, ma comunque sono consapevole di cosa devo mangiare. Adesso che abito a Trento per via dell'università mi cucino da sola. e solitamente a pranzo prediligo ovviamente carboidrati così, e la sera, a meno che non sia la sera prima della gara, e mangio pesce, carne, verdure e comunque inserisco sempre dentro frutta, verdura, ma anche dolci. Quindi a Trento ti alleni da sola? Sì, mio papà mi segue la mattina e poi va a lavorare. Bene, ma che aria c'è a Trento? Che sono tutti atleti di altissimo livello lì, sì, o sbaglio? Fa un sacco di freddo, ma va bene. Sì, sì, fa freddissimo a Trento. Sì, sì, soprattutto la mattina. Ad esempio, la scorsa mattina ho fatto un medio e l'ho fatto con meno 10 gradi. Ah, meno 10? Sì, quindi è stato un po' difficile allenarsi. Quindi siete temprati, per cui andate forti. Mi viene in mente, lo so, Cesare Maestri, Angela Mattevi, no? Insomma, sì, esatto. Soprattutto per la corsa in montagna, allora insomma, quindi... No, no, infatti, ci alleniamo tutti lì insomma, sì. La zona è giusta per andare forte. Sì, dai. Beh, anche perché, insomma, che altezza è Trento? Credo sia 600 metri, o forse un po' più basso, via di lì. Forse c'è un po' come posso dire, un valore dell'atletica in quella zona, anche perché mi viene in mente Rovereto, che c'è il meeting di atletica, probabilmente influenza in qualche modo tutto il territorio. No, questo sicuro. Poi credo, sono dell'idea che finché hai compagnia, hai un gruppo, quindi persone con cui condividere la tua passione, non importa dove ti alleni o dove gareggi. Sono più importanti le persone, quindi. Sì, sì. Ma il pomeriggio riesci comunque ad avere qualcuno al tuo fianco, non so, che corre con te o... Raramente. Ti manca questa cosa? No, io fin da piccola mi sono allenata da sola o comunque sempre con mio papà. E forse trovo compagnia negli allenamenti quando vado ai raduni della nazionale. Insomma, deve essere anche divertente. Ti piacciono i raduni? Sì, sì, questo sì, anche perché comunque... siamo tutti ragazzi, ragazze della stessa età. Fino all'anno scorso andavamo tutti a scuola, quindi condividevamo anche pure le perle della scuola. Ah, ecco. E da quest'anno cambia un po' Under 23, per cui insomma. Esatto. Si cresce da tutti i punti di vista. Sì, questo sì. Grazie mille a Nadia Battocletti, a presto. Grazie mille. E prima di chiudere, visto che abbiamo parlato di maratona e molti ce l'hanno chiesto, sul sito di Radio 24, la pagina di Personal Best, trovate il programma di allenamento per correre una maratona preparato per noi dal coach Fabio Vedana. Sono 13 settimane di preparazione con due obiettivi, come insomma abbiamo già fatto altre volte: correre la prima maratona, diciamo sopra le 4 ore, o comunque arrivare al traguardo con il sorriso, e per i più allenati arrivare al traguardo in 3 ore e 30 minuti. Il prerequisito è quello di aver già corso una gara di 10 km in 60 minuti, quindi con un passo di 6 minuti al chilometro. Alla pagina di Personal Best sul sito di Radio 24 troverete comunque sia la parte scritta con tutte le indicazioni settimana per settimana, sia gli audio con tutti i consigli del coach Fabio Vedana. Nel frattempo anche per questa settimana il tempo è volato, grazie a Gianmarco Ferronato in regia. Noi ci risentiamo domenica prossima sempre alle 6.30, alle 16.15. Poi ovviamente quando volete ci trovate in podcast. Buona giornata. Buona giornata. Personal Best. Tutte le puntate sono disponibili su radio24.it.